Sono le 16. Remake. Hello everybody and you're very welcome to questa edizione di Remake. Sono domenica pomeriggio, poco dopo le ore 16, il che vuol dire che abbiamo il nostro appuntamento con la musica vecchio e poi in versione tutto moderno, rifatto in chiave nuovo e moderna. Sì, ogni settimana per 2 ore la soddisfazione di sentire originali e poi cover. Abbiamo il nostro Giancarlo Raiola, l'ingegnere on controls, e lui si diverterà a fare tutti questi remix dal vivo questo pomeriggio. My name is Virgil Kavanagh e siamo pronti ad iniziare con la voce di Michael Jackson e suo fratello. Can you feel it? Kiss Kiss Network. che domanda di domenica pomeriggio, è il sesso o è l'amore? Non credo che voglio sapere a quest'ora, almeno ragazzi. That's The Temperer, un gruppo italiano con la loro versione Feel It, che sarebbe un trattamento del brano Can You Feel It the Jacksons, dal loro album Triumph del 1980. You're listening to Remake, siamo nel 1985 with Cameo. In the mix, so I lost in the sea. Honey, I've done it, so I'm exhausted. Baby, Mo' Baker, don't chase her. Now get it right with your heartbreaker. I keep it tight, but I'm no faker. Can laugh now, but you cry later. I think I like you in your freak clothes. Freak those in my specialized peep shows. And then I make you touch your knees to your elbows. Toes curl, but you see the Melrose. It's too easy, I like it when we smoke that. Don't choke that. Baby, hold on, I don't wanna do it. see, I bring out the freak in you up and down on me. I'm your lover girl. Me, your lover boy. And we'll be home alone. Come and touch toys, where you know I can't avoid. The way I throw that cat, pop that drop, stop, watch, breath, head, get your mo' rock. Yeah. All of the Damn. Things you wanna do to me, you wanna. We can get obscene, my Purina and your dingling mingle. Bother me not when the sensation come out. Well, girl, I'm gonna make you scream. Baby. Feel me when I pop the pump later. Remind me we can be close like family. So sweet, you taste like all types of candy. From Starburst to jelly beans. Banana split my Dairy Queen. Butterfinger my tangerines. Chickens only taste my love before you they dream. Yeah, all my ladies, let me hear you scream. Hey, on me, much as you want to, you can't do what the food I do. Emulating me daily. Hang on me, much as you want to. You can't be who the fuck I be. Just be imitating me, baby. The voice of Mariah Carey Lee che sta facendo il ma il rap è fatto da Da Brat and Ludacris con un po' di intervento dal cameo pure, e questo è un nuovo singolo da Mariah Carey, si intitola Lover Boy e viene dall'album Glitter che uscirà e sarà un pure un film per lei. E questo insomma è un rifatto, diciamo un cover. Lover Boy è il titolo della versione di Mariah Carey, ma l'originale si intitola Candy, è del gruppo Cameo e viene dall'album Word Up che è uscito nel 1985. Piccola pubblicità per noi e torniamo con un gran classico remixato da Raiola. Spot time. Bevi la vita tutta d'un fiato, in ogni sorso diviso tra una vita da non scordare mai. Oh, ma te rendi conto? M'ha piato pei fondelli, tu figlio! Che ha fatto il cocco di mamma sua? M'ha fregata la macchina nova, col volante tutto impellicciato! Per far gallo, cara ragazza! Ma che, pariva prima al concessionario Aprilia! Si è messo lì in prima fila! Gagliardo! Quando torna i vedi, sganassoni! Con l'offerta Aprilia scooter su misura, puoi avere lo scooter che vuoi tu, alle condizioni che scegli tu! E in più, è Aprilia! Ernesti, torna presto, sacco! Scooter Aprilia, se no vedi! Yes. Interrompiamo le trasmissioni per una notizia straordinaria. Oh, ecco un campione, grazie. I manifesti con la foto del nuovo cornetto caramel da Agida ritraggono solo un gelato. Gli automobilisti che stanno creando code in prossimità dei manifesti sono pregati di non rimanere fermi a guardare. Buono, andate al bar. Ricordiamo anche ai pedoni che si stanno radunando che si tratta di una semplice foto del nuovo cornetto caramel da Agida. Vi invitiamo a mantenere un atteggiamento normale. Sono solo foto, non assembratevi. Anzi, assembratevi che al bar ci vado io. Nuovo cornetto caramel da Agida. Mai visto nulla di più bello. Kiss, kiss. Wow! Su Kiss Me di giugno trovi Britney, Jerry e Emma con i loro segreti in esclusiva e le lollipop come non le hai mai viste. E il regalo per te, l'imperdibile raccolta del meglio di Adelaide e la guida sul tuo ciclo. Kiss Me è in edicola. Kiss, kiss. Cara Tenderly, papà dice che il tuo gran rotolo non è solo morbido, ma anche lunghissimissimissimo. Allora mi dici come faccio a diventare bravissimissimo a scuola? Carta igienica Tenderly Gran Rotolo. Tenderly è casa mia. Kiss, kiss. Siete pronti per l'evento rock dell'anno? Sul palco dell'Heineken Jamming Festival, Vasco Rossi e Offspring per un weekend di grande musica. All'autodromo di Imola, il 16 giugno, Vasco Rossi, Alanis Morissette, Irene Grandi, Marlene Kunz, Stereophonics. Until the break of... Il 17 giugno, Offspring, Placebo, Incubus e molti altri. Heineken Jamming Festival. Sounds good. Kiss, kiss. Remake. Oh. Remake. Those days are over. You don't have to sell your body to Remake. Like this. Di George Michael dal suo album di cover che ha fatto Songs from the 20th Century, e questo è Roxanne versione 1999, e poi prima di quello abbiamo sentito Sting insieme a The Police, un versione tutto remixiato del 1997, remixiato da Puff Daddy con un bel contributo pure di Pras dai Fugees, bello bello, e abbiamo iniziato tutto questo mix con The Police, l'originale proprio of Roxanne che viene dal 1978, bravo Raiola, torniamo nel 1982, Soft Cell. and you bring me love, and you bring me joy. Oi, oi, grab a girl, grab a boy, to the left, to the right, we're coming down, we're coming inside. This is the sound of... Bring me love and you bring me joy. A rubber girl, a rubber boy. Oi, oi, oi, oi. Sound of the Strictly Underground. We're in your town. Check this out. Keep dancing, this here tune's got the party pumping. All the ravers left, right and center. Wicked tonight, cannot forget ya. DJ rinse and get the crowd hyper. Feel the joy as we come together. Ride the roll, the beats with the flavor. Special on the mic for the raver. You bring me love and you bring me joy. Mark the Rockstar Rider, special MC. We get you freaky, we get you freaky. Feel the joy inside the place. Two-step beats, we could his face. Joy è il nome del pezzo, lui si chiama Mark Rough Rider, questo viene da quest'anno 2001, nuovo versione diciamo di Tainted Love, almeno usa la base. E prima di quello abbiamo sentito i Prozac Q, sempre da quest'anno, with their version of Tainted Love, bello. E prima di quello abbiamo sentito da 1982 Mark Almond with Soft Cell, Tainted Love è il nome del pezzo, e quello infatti è un versione cover pure, perché l'originale viene dagli anni 50, un gran bel canzone questo Tainted Love. E noi abbiamo sentito tutto remixiato dal nostro Giancarlo Raiola on Remake questa domenica pomeriggio. Allora voglio salutare a Marzia che mi ha scritto, grazie del tuo messaggio Marzia, e anche a Marco da Bologna che voleva sentire un pezzo italiano. Non credo che esista un cover di quello, quindi mi dispiace, però spero che stai godendo la musica di questo pomeriggio. E poi a Luisa e Carmi, grazie di averci scritto dalla provincia di Vivo Valencia, siamo al mare, dice, vieni a fare un tuffo con noi, ti aspettiamo, ma magari. Allora buon tuffo ragazzi, e con la musica americana proprio dal soundtrack of Born on the 4th of July, un pezzo che parla della morte di Buddy Holly, The Day the Music Died. Il pezzo si intitola American Pie e lui è Don McLean. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, him, day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. Madonna with American Pie. Questo originalmente viene dal film The Next Best Thing, e invece poi lei ha deciso di aggiungerlo al suo album Music, un gran canzone americano, American Pie, l'originale di quale viene da Don McLean degli anni 70, 71 ad essere preciso. Bravo, bravo. Il nostro numero di SMS, non l'ho dato prima, è 348-661-9461, se ci volete comunicare questo pomeriggio. Allora, the music sounds like Tom Petty and the Heartbreakers, infatti lo è, però la voce principale è Stevie Nicks. It's Stop Dragging My Heart Around questo pomeriggio on Remake. Yeah. Heartbreakers with Stop Dragging My Heart Around. Questa versione è uscita nel 2000 su un anthology di Tom Petty. Comunque non è mai uscito su un album ufficiale, diciamo, perché era una canzone su quale stavo lavorando Tom Petty, però alla fine ha deciso di non utilizzarlo. Il suo produttore Jimmy Iovine l'ha presentato a Stevie Nicks e ha detto: ma che pensi di questo brano? Lei ha detto: insomma è bello, però non voglio usarlo per Tom Petty se le sta usando Tom. Lei ha detto: no, insomma, potete farlo insieme. Allora Stevie Nicks ha invitato Tom Petty a venire in studio e hanno fatto questo bel duetto uscito nell'81. Allora ragazzi, you're listening to Remake. Torniamo nel 1980, un album intitolato Hotter Than July. Questo è il tributo di Stevie Wonder al suo amico Bob Marley. It's Master Blaster. Everyone feeling pretty. Take the time. I'm freaky deaky and I dance how I like it. Freaky deaky and I dance how we do. Jamming, I don't know with the crew. Step on the dance floor, see what you do. Never know, could be someone that you like. Ideal partner to dance all night. I come down just a bit of a vibe. Keep a jamming all night. Rock up, rock wild for a while. We come down with the rolling style. Big enough for do that, for do that, for do that, for do that. Big enough for do that, though. Who that? Beating on the one and the two. We got a group boy crew inside of them. Yo, better just understand that we came down here to make the open jam. And in my plan, my dan, I got the answer to your question. Tell me right now what you're dead on. Music is my only weapon. Feel the vibe is my answer. I'm rolling with the master blaster. We want you to join the party. Want your answer, okay? You've got to let all your worries, let the grease through our fingers slip away. All the way. Nobody and MC Neat with Master Blaster, versione 2000, arriva dall'anno 2000, e questo ha il vocale del JJ. Bello proprio questa versione, che è un cover del pezzo di Stevie Wonder dell'album Hotter Than July. Master Blaster jamming un tributo, diciamo, al suo amico Bob Marley. You're listening to Remake. Allora voglio salutare Dixie, che si trova in ospedale. Ti ha scritto un amico con un grande bacio e un buon guarigione da un'amica, anzi un'amica. E allora per te, dopo la pubblicità, torniamo con un brano tutto costruito per un po' di aiuto dagli amici. Spot Time. Estate 2001. Anche quest'anno i mondiali di beach volley con Radio Kiss Kiss Network. Con il Beach Volley World Tour, Maxicono Cup 2001, dal 13 al 17 giugno a Cagliari, vedrai in campo le squadre femminili più forti del mondo. Grandi performance, partite avvincenti e i giochi e l'animazione di Radio Kiss Kiss Network. Beach Volley World Tour, Maxicono Cup 2001, dal 13 al 17 giugno, Spiaggia del Poetto, Cagliari, in collaborazione con l'assessorato Sport e Turismo del Comune di Cagliari. Kiss Kiss. Bevi la vita tutta d'un fiato, in ogni sorso diviso avrai una vita da non scordare mai. Team, ti immagini di poter messaggiare col gusto forte di risparmiare. Adesso è tutto vero, adesso si può fare. C'è una nuova tariffa da memorizzare. Flash Team Free SMS regolare. Quello che ti aspetta sarà un bel vantaggio, perché ogni messaggio ne hai uno in omaggio. Solo 30 SMS al mese verso tutti i team e non hai più spese. Allora dai fratello, fatti il vantaggio. Mando messaggio, ne hai uno in omaggio. Informati nei negozi Team. Team, vivere senza confini. Yes, yes. Ti devo dare una brutta notizia. Lo yogurt Parmalat non c'è più. Ma c'è una buona notizia. Lo yogurt Parmalat è diventato Joy, ancora più gustoso e ricco di equilibrio. Nuovi yogurt Joy Parmalat danno alla vita tutto un altro ritmo. Yes, yes. Interrompiamo le trasmissioni per una notizia straordinaria. Oh, ecco un campione, grazie. I manifesti con la foto del nuovo cornetto caramel da Agida ritraggono solo un gelato. Gli automobilisti che stanno creando code in prossimità dei manifesti sono pregati di non rimanere fermi a guardare. Buono, andate al bar. Ricordiamo anche ai pedoni che si stanno radunando che si tratta di una semplice foto del nuovo cornetto caramel da Agida. Vi invitiamo a mantenere un atteggiamento normale. Sono solo foto, non assembratevi. Anzi, assembratevi che al bar ci vado io. Nuovo cornetto caramel da Agida. Mai visto nulla di più bello. Yes, yes. Make and toss it, let's rip make. Yeah, rip make. Yeah. La musica del passato rivisitato in chiave moderna. Rip make and toss it, let's. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do? What do you see when you turn on the light?

la versione definitiva, diciamo, di With a Little Help from My Friends, la bella voce di Joe Cocker, che ha fatto il cover di questo grande pezzo dai Beatles, e questa è una versione dal vivo, bello proprio. Prima di quello abbiamo ascoltato Wet Wet Wet With a Little Help from My Friends, il numero uno per loro nel 1988, e questo è stato un parte di un album di beneficenza organizzato da una rivista inglese. È stato un numero uno per loro. Sul lato B c'era un'altra cover dai Beatles di Billy Bragg with Leaving, She's Leaving Home. E all'inizio di tutta questa traccia abbiamo ascoltato l'originale scritto da Lennon e McCartney per l'amico Ringo Starr. It's With a Little Help from My Friends from the album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band del 1977. Bellissimo proprio. Questo è per Dixie in ospedale. Spero che ti senti meglio dopo questo bel pezzo. Allora andiamo un po' nel mondo del cinema. Il film di Eddie Murphy si intitola Beverly Hills Cop. Lui in Beverly Hills Cop era Axel Foley e suo tema era Axel F. And here's Harold Faltermeyer. versione di Axel F, infatti non si intitola Axel F questa nuova versione, si intitola Axel B, e loro sono di Axel Boys Quartet, un gruppo svedese che insomma fanno questo remake dai pezzi che noi conosciamo in altre versioni. Le settimane scorse abbiamo fatto sentire loro versione di Barbie Girl, bello proprio per questo gruppo svedese. Prima di quello c'era l'originale del 1992, Axel F, to Harold Faltermeyer from the original, the film Beverly Hills Cop, Axel Foley, Eddie Murphy, insomma mi porta proprio alla gioventù, ed è per questo che serve il remake, sentire i vecchi brani e poi il modo con il chiave moderno, as it was and as it will be in the future, bello proprio. Allora devo salutare Gian da Milano, grazie per il tuo messaggio sul 348-661-9461. Allora se voi volete scriverci un bel messaggio questo pomeriggio, noi saremo insieme fino alle 18 con la bella musica remake, tutto remixato, il nostro Giancarlo Raiola che si sta divertendo proprio. Allora prendiamo una piccola pausa adesso per aggiornarci un po' e torniamo subito dopo con un grande classico da Billy Joel. Remake. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. I'd love you any better, yeah. I love you just the way you Dal 1978, that's Barry White from his album Barry White, The Man, e lui l'interpreta leggermente diverso di Billy Joel che fa l'originale del 1977, un grande successo per lui. You're listening to Remake insieme fino alle ore 18 with Raiola on controls, Fergal on voce, here's Michael Jackson. Won't hold me tonight. a Human Nature, that's SWV, cioè Sisters with Voices, del 1993. Bravissimi proprio. Purtroppo sono sciolti nel 1998, quindi non ascolteremo più pezzi così bravi dell'SWV. Infatti non ascolteremo proprio niente da loro. Prima di quello abbiamo ascoltato l'originale da Michael Jackson del 1982. L'album era Thriller, il pezzo era Human Nature. E Thriller, come sappiamo, è uno dei album più venduti da sempre. Infatti, da 9 brani che c'erano sull'album, 7 di quali sono stati messi come singolo e sono stati tutti un grande successo per Michael Jackson. Bravo, bravo lui! Speriamo che il suo nuovo album, che può fare sua magica un'altra volta quando esce, dicono entra Natale. Speriamo. Allora, pubblicità per noi e torniamo con un gran mix di 4 bei pezzi, anzi un pezzo, tutti mixati da artisti diversi. Spot time. Interrompiamo le trasmissioni per una notizia straordinaria. Oh, ecco un campione, grazie. I manifesti con la foto del nuovo cornetto caramel da Agida ritraggono solo un gelato. Gli automobilisti che stanno creando code in prossimità dei manifesti sono pregati di non rimanere fermi a guardare. Buono, andate al bar. Ricordiamo anche ai pedoni che si stanno radunando che si tratta di una semplice foto del nuovo cornetto caramel da Agida. Vi invitiamo a mantenere un atteggiamento normale. Sono solo foto, non assembratevi. Anzi, assembratevi che al bar ci vado io. Nuovo cornetto caramel da Agida. Mai visto nulla di più bello. Yes, yes. Quasi mezzo litro di acqua. Ecco quanta ne perde ogni giorno la tua pelle. Ma non solo. Ogni giorno perde anche un po' di giovinezza, perché è esposta ai raggi UV della luce, responsabili di più dei 2/3 dell'invecchiamento cutaneo. Da oggi c'è il nuovo Thermal SUV di Vichy, che associa reidratazione 24 ore alla protezione anti-età del sistema filtrante UV al Maxoril SX. Nuovo Thermal SUV di Vichy, in farmacia. Vichy, perché la salute passa anche dalla pelle. Yes, yes. Uffa, sempre la stessa vacanza. Mauritius, Barbados. Non dirmelo. Per fortuna devo rientrare per un appuntamento improrogabile dal concessionario Aprilia. Pensa, non ho trovato posto neanche in business. Ho dovuto prendere il treno in seconda, solo posti in piedi. Ma sei impazzita? Ma ne vale la pena. Con l'offerta Aprilia scooter su misura, puoi avere lo scooter che vuoi tu alle condizioni che scegli tu. E in più, è Aprilia. Ma secondo te, con l'autostop arrivo prima? Yes, yes. Dal 15 al 17 giugno, Napoli Comic Con, la terza edizione del Salone Internazionale del Fumetto dedicata alla Spagna e all'America Latina. Napoli Comic Con, cinema d'animazione, anteprime, area mercato e la mostra di José Muñoz. Un regalo per tutti, il numero zero di El Die, il fumetto che si ispira a Diego Armando Maradona. Napoli Comic Con, 15, 16 e 17 giugno a Napoli nelle sale di Castel Sant'Elmo. Yes, yes. State sentendo una particella di sodio in acqualete che cerca di comunicare con una bollicina. Non te ne andare! Bolla! È scoppiata! Acqua minerale Lete, l'acqua effervescente naturale con la minor presenza di sodio. Acqua Lete, ricca di piacere, povera di sodio. Yes, yes. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something ascoltare senza te. Il tuo suono impercettibile vibra ancora dentro me. Oh, se tu fossi qui, forte a me vorrei stringerti. Sorprenderti, prenderti. Ma dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? They could last forever. The rendezvous are coming together, meeting in places, the pleasure times we spent were so real, and I could feel the everlasting love coming through to my appeal. But now the time has come to mind that we must part and separate to make a start. With that thought in mind, there's only one thing to say: with you in my life, it'll be a lovely day. And I'm okay. And the kinda late, the date was great, but here comes the moment that I hate. It's too bad, a lovely day has gotta end up like this. So wave goodbye with a hug and goodnight kiss. I said goodnight, my lovely. I said, goodnight, my lovely. She said, what, you gonna leave me all alone? Oh, I forgot to tell you, there ain't nobody home. Now y'all know me, I'm a real cool guy, but inside things was kinda like the 4th of July. I walked inside, I said, hello there, miss, and then she gave me a kiss. Oh, you want some of this? Passion building, mentally bonding. Slowly I caress her, but she's responding. Just close your eyes and keep thinking of me. Here I come, girl. Lovely. Pezzo, una giornata bellissima, infatti sembra proprio una cosa adatta per oggi, perché oggi è un sole che splende sul sud dell'Italia e lo spero in tutta Italia pure. Bello, bello questo pezzo. Infatti l'ultimo che abbiamo ascoltato si intitola Lovely Days e viene da Jazzy Jeff, DJ Jazzy Jeff and Fresh Prince, che come sappiamo è veramente Will Smith. Bello questo. Prima di quello, dal 1992, abbiamo ascoltato It's Going to Be a Lovely Day from the Sisters, The Soul System. Poi una versione italiana abbiamo sentito da Caigo, 98 era l'anno, e il pezzo intitola Dove Sei, Dove Sei, e l'originale tutto prima di quello era di Bill Withers, Lovely Day from 1980, e devo ringraziare Aurelio Gallo per questo bellissimo medley, bravissimo. You're listening to Remake questo domenica pomeriggio, stiamo ascoltando i classici e poi versione in moderno eccetera. Allora un pezzo proprio classico, it's Bob Dylan, Like a Rolling Stone, The History of Music. Once upon a time you dressed so fine, threw the bump of dime in your prime, then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. Kiss Kiss Network. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime, and then you, yeah, people call, say beware, I die, you're bound to fall, they thought that they were just a kidding you. You used to laugh about everybody that was Compromise with a mystery train. certo sì, la storia della musica, perché questo pezzo qua, Like a Rolling Stone, è considerato uno dei più bei pezzi mai scritto. L'originale è di Bob Dylan, è uscito nel 1965 sull'album Highway 61 Revisited, e tra i suoi fan c'è Michael Stipe, che dai REM, che dice che la canta ogni mattina sotto la doccia. E poi ovviamente ci sarebbero pure i Rolling Stones, il gruppo dei Mick Jagger eccetera, che le guardavano questa canzone e era molto aspettato che loro avrebbero fatto un cover, però non è mai successo fino al 1995, molto tempo dopo, quando loro hanno fatto questo album dal vivo in un piccolo club. Stripped era il nome dell'album. Mick Jagger and the Rolling Stones with Like a Rolling Stone on Remake. E adesso dal 1983, here's Cyndi Lauper. Ha, ha, ha. Una versione tutto nuovo e remixato e rappato sono The Happy Nation and That's Girls Just Wanna Have Fun. E questo viene dal 1996, un bel singolo per loro. E prima di quello, da 13 anni prima, abbiamo ascoltato l'originale di Cyndi Lauper. E notizie per Cyndi Lauper: lei sarà un super ospite sul nuovo album di Tricky, che uscirà tra poco. Blowback si intitola l'album. E Tricky dice che Cyndi Lauper ha voluto proprio lavorare con lui, e quindi bravo questo fatto. E non lo so, ragazzi, se vi ricordate il video di questo pezzo del 83, Girls Just Wanna Have Fun. Era più o meno quando sono usciti il video come una marketing tool per la prima volta, ed era molto molto, diciamo, ingenuo, però a pensarci molto bello. Eppure tutte queste ragazze a casa di Cyndi Lauper che facevano questa bella bella festa. Here's Randy Crawford. Radio Kiss Kiss Network. Around. Paola Ama from her album Much Love del 1997, and You Might Need Somebody, bellissimo. E abbiamo iniziato questo Tracce con la versione originale di Randy Crawford dall'album Secret Combination. L'anno era 1981 e non lo so se vi siete resi conto del fatto che è cambiato la voce a metà strada. No, non è un duetto che ci hanno registrato Randy Crawford insieme a Paola Ama, ma il nostro Giancarlo Raiola, che si sta divertendo come un pazzo. Spot time. Lemon Soda Show! Avete limonato con il ragazzo di una vostra amica? Siete perfetti per Sensi di Polpa! Il programma di chi ha messo un po' più di agrume nella propria vita! La vita è aspra, ma Lemon Soda è più lemone più soda! Tias, tias. La freschezza puoi averla già sentita. Puoi averla toccata. Puoi averla gustata. Ma sulla pelle non l'hai ancora provata. Da L'Oreal Plenitude Hydra Fresh, un gel crema ultra fresco, super idratante, pieno di vitamine e minerali. Hydra Fresh, sulla pelle una sensazione unica. L'Oreal, perché voi valete. Tia, tia. Che mal di testa. Moment 200, il mal di testa ti passa in un momento. E il mal di testa? Passato. Medicinale a base di ibuprofene, a controindicazioni ed effetti collaterali. Leggere il foglio illustrativo. Non somministrare sotto i 12 anni. Yes, yes. Interrompiamo le trasmissioni per una notizia straordinaria. Oh, ecco un campione, grazie. I manifesti con la foto del nuovo cornetto caramel da Algida ritraggono solo un gelato. Gli automobilisti che stanno creando code in prossimità dei manifesti sono pregati di non rimanere fermi a guardare. Buono, andate al bar. Ricordiamo anche ai pedoni che si stanno radunando che si tratta di una semplice foto del nuovo cornetto caramel da Algida. Vi invitiamo a mantenere un atteggiamento normale. Sono solo foto, non assembratevi. Anzi, assembratevi che al bar ci vado io. Nuovo cornetto caramel da Algida. Mai visto nulla di più bello. Yes, yes. Voli estratti sulle ruote, pardon, sulle rotte British Airways. Roma-Catania o Palermo, 85.000 lire a tratta. Roma-Milano-Linate, 115.000 a tratta. Roma-Atene, 285.000 andate e ritorno. Roma-Nizza, 440.000 andate e ritorno. Avete ascoltato i numeri vincenti delle tariffe British Airways valide nel mese di giugno. Ora chiamate l'848-81-2266. Voli operati da BWA per conto di NJI, tariffe soggette a restrizioni, tasse escluse. Estraetevi, pardon, distraetevi con British Airways. Yes, yes. Remake. Remake. out. Yeah. Let me pause.